Epilogue. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Io sono convinto che con serenità di giudizio e limpidezza d'animo si possa parlare di qualunque cosa. Anche di quello che potrebbe sembrare invalicabile dal giudizio delle persone che si ritengono profani rispetto a un'istituzione così forte, così degna di rispetto come la Chiesa Cattolica. Questa mattina parleremo di un evento di cronaca che sta appassionando da qualche giorno i giornali. Non molto appassionando, devo dire, perlomeno nel suo incipit. Tutto accadde da un articolo che uscì sul Fatto Quotidiano il 10 di questo mese. Titolo: Vaticano, trame veleni, complotto contro il Papa, entro 12 mesi morirà. Oggi parleremo di quello che noi possiamo cercare di capire alla luce delle testimonianze che sono uscite sui giornali, alla luce di alcuni colleghi che mi aiuteranno in questa ardua impresa. Lo dico in anticipo, prima ancora che mi possano essere sollevate delle eccezioni. Abbiamo chiamato, avvertito, comunicato di questa trasmissione tutte le persone che avrebbero potuto darci anche un parere dal punto di vista dell'ufficialità e della Chiesa. Abbiamo comunicato a Padre Federico Lombardi, che è il portavoce del Papa e direttore della sala stampa vaticana, che avremmo fatto questa trasmissione. Abbiamo chiesto un intervento anche al direttore dell'Osservatore Romano, Gian Maria Vian, e se loro vogliono, hanno avuto comunicazione di questa trasmissione, al momento non ci hanno dato disponibilità di partecipare, ma noi cominceremo lo stesso. Nel novembre 2011 il cardinale Romeo si è recato con un visto turistico a Pechino, dove di fatto non ha incontrato nessun esponente della Chiesa Cattolica in Cina, bensì uomini d'affari italiani che vivono, o meglio lavorano, a Pechino e alcuni interlocutori cinesi. A questi avrebbe confidato in segreto che il Santo Padre si starebbe occupando della sua successione e avrebbe già scelto il cardinale Scola come idoneo candidato, perché più vicino alla sua personalità. Lentamente, ma inesorabilmente, lo starebbe così preparando e formando a ricoprire l'incarico di Papa. Tutto inizia da quello che stiamo riassumendo in due brevissime schede che vi faremo ascoltare. L'intervento del pubblico stamattina è mirato al fatto di come un credente, un cattolico, anche un laico che guarda la Chiesa come un'istituzione degna di rispetto, come già detto, vede questa vicenda, quali domande si pone di fronte a questa vicenda e quali risposte finora si è dato alla luce di quello che ha letto sui giornali, ha visto poco, devo dire in realtà, raccontare in televisione. 800 24 00 24. Il cardinale Romeo ha continuato a sorprendere i suoi interlocutori in Cina, annunciando che il Santo Padre avrebbe solo altri 12 mesi da vivere. Le dichiarazioni del cardinale sono state esposte con tale sicurezza e fermezza che i suoi interlocutori in Cina hanno pensato con spavento che sia in programma un attentato contro il Santo Padre. Il cardinale Romeo si sentiva al sicuro e non poteva immaginare che le dichiarazioni fatte in questo giro di colloqui segreti potessero essere trasmesse da terzi al Vaticano. Altrettanto sicuro di sé, Romeo ha profetizzato che già adesso sarebbe certo, benché ancora segreto, che il successore di Benedetto XVI sarà in ogni caso un candidato di origine italiana. Come descritto prima, il cardinale Romeo ha sottolineato che dopo il decesso di Papa Benedetto XVI, il cardinale Scola verrà eletto Papa. Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, che sono in regia, hanno voluto dare un tono e una sottolineatura epica a questo documento che è apparso sui quotidiani come tale è stato riportato. Perché? Perché è un documento che in sé non si può fare a meno di notare che ha degli echi quando si parla di profezie, quando si parla di morte del Papa, quando a Papa ancora vivente, non si può non entrare in un clima drammaturgico, romanzesco. Dan Brown ha lungamente parlato, è stato lungamente contestato per aver toccato questi argomenti. Noi cercheremo di farlo con serenità questa mattina. In studio ho due colleghi esperti della materia, perché l'essere vaticanista è una branca del giornalismo molto specifica, sono quelli che del Vaticano sanno tutto. Un semplice credente può essere semplicemente semplicemente appagato della parte del credo che dice credo la Chiesa una santa cattolica apostolica romana e basta, finisce lì. Ma chi entra più nello specifico e racconta quello che in fondo è un'istituzione fatta da uomini e quindi tutte le possibili circostanze che comporta l'essere umano ne sa molto di più. Ho in studio Ignazio Ingrao, che è il vaticanista di Panorama. Ignazio, buongiorno. Buongiorno. E Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno anche a Carlo. Buongiorno a voi. Una domanda velocissima a cui dovete rispondere in maniera fulminea. La mattina, anzi, si sapeva già dalla sera prima che era stato annunciato nella trasmissione Servizio Pubblico Santoro, che avete avuto eco di questa notizia. Qual è stato il primo pensiero, Ignazio? Ma certamente mi ha un po' sorpreso, perché Romeo è stato nunzio, quindi ambasciatore della Santa Sede, uomo prudentissimo, attentissimo. Mi ha colpito che si potesse essere lasciato andare a queste affermazioni. Carlo Marroni, tu invece cosa hai pensato? Beh, insomma, ho pensato che quando... Uno scherzo, un gioco, una cosa seria. Insomma, una cosa forte, quando si parla di Vaticano si va sempre a colpo sicuro, nel senso che si colpisce nel segno, soprattutto quando si parla di complotti, di trame. Diciamo che parlare di un successore già designato con un Papa vivente e, a quanto se ne sa, sostanzialmente ancora in salute, già con un nome specifico, quando sappiamo che saranno i 120 cardinali un giorno preciso a votare il Papa, ecco, questo dà un po' l'impressione che il documento sia originale. Sì, evidentemente è acclarato che è originale, il contenuto forse lascia un po'. Padre Lombardi questa mattina ha detto: abbiamo la nostra Wikileaks al Vaticano, quindi sì. Se è uscito è un documento che da lì è uscito in ogni caso. Certo. Non ti viene, Ignazio, di pensare, solo una domanda, io da profano, da persona che non è dentro a tutte le specifiche correnti delle gerarchie vaticane, il fatto che un cardinale dica il Papa morirà entro 12 mesi per un attentato, se la parola attentato poi è stata usata, adesso entriamo più nello specifico, e quindi si fa l'idea di un successore, ma la prima cosa che viene in mente: se io sapessi dell'attentato a una persona che io conosco, lo metterei in sicurezza, non penserei al suo successore, non darei per scontato che l'attentato andasse a segno. Ma qui dobbiamo però considerare che il documento esiste ed è stato portato dal cardinale Castrillo-Noyos in Vaticano, come è stato detto, però bisogna capire chi l'ha confezionato e per colpire chi. Poi di fatto non è detto che Romeo abbia esattamente detto quelle cose, il documento è stato confezionato per colpire Romeo, che è stato un grande avversario del cardinale Ruini, della ex presidente della CEI per tanti anni, molto amico invece Romeo di Sodano, dell'ex segretario di Stato, che comunque ha un peso nel collegio cardinalizio. Quindi tutto questo rientra in una dinamica di rapporti tra cardinali che è molto più articolata e molto più complessa e va molto oltre dal contenuto. Il contenuto serve a screditare alcuni, in questo caso Romeo, togliere scola dalla possibilità, diciamo, di avere un peso importante nel collegio cardinalizio, e utilizzare il cardinale Castrillo-Noyos, che anche lui è un vecchio nemico di Romeo, come tramite per portare questo in Vaticano e creare ancora di più, diciamo, polvere. E amico delle Febriani. Ricordiamoci che Romeo, quando il Papa andò in Sicilia e fu messo uno striscione a favore della messa in latino, Romeo chiamò la Digos e fece togliere questo striscione. Castrillo-Noyos si è legato al dito questo, e quindi non è un caso che chi ha fabbricato questo documento l'abbia dato proprio al cardinale colombiano perché lo portasse in Vaticano. 800 24 00 24, che ascolta, mi piacerebbe sapere qual è la sua impressione. Le persone che stanno parlando sono persone che tutti i giorni nelle loro testate raccontano le storie del Vaticano, quindi sono persone che sono al dentro. Cosa vi fa pensare quello che state ascoltando? Marco Lillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Lillo è il giornalista del Fatto Quotidiano, da cui nasce tutto. La sera precedente all'uscita di questo titolo che ho citato sul Fatto Quotidiano era già stato annunciato nel programma di Santoro, sarebbe stata questa notizia. Però per qualche giorno, diciamo, c'è stato un eco piuttosto tiepida rispetto a questa notizia, tanto che Travaglio disse: ma fate finta di non accorgervi di quello che abbiamo scritto. Marco. Sì, diciamo, questo un po' rientra nel gioco delle parti tra i giornalisti, sappiamo bene, a nessuno piace riprendere le notizie date dagli altri. Dall'altro qualcuno lato, disse rosiconi perché l'abbiamo trovata noi la notizia. Ecco, è un po' un costume della nostra categoria. È una vera notizia, secondo te, questa? Beh, direi di sì. Insomma, adesso al di là del fatto se esiste o meno un rischio di morte per il Papa, che già di per sé, già il porsi una domanda del genere è una notizia. Beh, esiste, ma per ogni essere umano, diciamo, ce lo fa di noi. Sicuramente, poi soprattutto se ha 85 anni, che Dio ce lo conservi a lungo, però è evidente che prevedere la morte in un anno di una persona così anziana può anche avere significati diversi rispetto a quelli dell'omicidio, e non l'abbiamo specificato dall'inizio. Ecco, la parola attentato è stata mai fatta, è stata mai legata al tuo pezzo? Il documento è assolutamente chiaro in questo, diciamo che nell'oggetto inerretto subito dopo l'intestazione strettamente confidenziale del documento, ricordiamo nella lingua tedesca, c'è proprio scritto chiaro e tondo, il cardinal Romeo ha detto che il Papa morirà entro 12 mesi, lo ha detto con una tale certezza che i suoi interlocutori hanno riportato la netta sensazione che si riferisse a un complotto di morte a danni del Papa. Ora, evidente, ma tu non sei domandato, Marco, se un cardinale sa con tale certezza sarà un complotto, perché invece che cercare di sventarlo, mettere in sicurezza appunto il Papa, già pensa al suo successore, come se fosse sicuro, fatale, che il complotto, che l'attentato funzionerà? Ecco, sicuramente chi ha scritto quell'appunto non doveva essere benevolo nei confronti del cardinal Romeo, questo è evidente, perché descrive un personaggio che va in Cina dove ci sono dei vescovi che da decenni sono reclusi, dove c'è una a parlare parte con degli imprenditori chiesa, poi non a parlare di e questo cose è il punto chiesa. Dove c'è una parte della chiesa che vive in clandestinità e un'altra parte della chiesa che ha piegato la testa alla cosiddetta associazione patriottica, per cui si è messa sotto il regime di Pechino, si dice siano anche pagati dal regime di Pechino alcuni di questi vescovi tra virgolette nominati con la benedizione del regime, cioè parliamo della prossima prima potenza industriale del mondo, cioè un luogo chiave nello scacchiere mondiale dove si sta giocando una partita vitale per la Chiesa. Ecco, parte un cardinale che nominerà il prossimo Papa perché parteciperà al conclave, un arcivescovo importante come Romeo, va in Cina con un viaggio segretissimo e scopriamo da questo documento che lui per 5 giorni non fa altro che incontrare imprenditori italiani e cinesi. Ora, e quindi questo vuol dire, non so se è vero o meno quello che dice quel documento, però è chiaro che l'immagine che dà di questo cardinale non è delle migliori. Senti, ora, Marco, scusami, mio dovere chiedertelo, tuo diritto non rispondermi. Come l'hai avuto te questo documento? È ovvio che noi abbiamo le nostre fonti, più che come l'ho avuto, l'importante è stato come l'ho verificato. Io quando l'ho pubblicato, questo come altri documenti non meno importanti secondo me. Però ti hanno cercato, ti hanno detto guarda cosa c'è. Non ti senti? No, abbiamo verificato con fonti questa volta di alto livello, diciamo, ovviamente, che quel documento fosse vero. Scritto in tedesco era innanzitutto, diciamo. Scritto in tedesco, però c'era una serie di elementi che quindi adesso non stiamo qui a dettagliare, ma insomma abbiamo verificato proprio con quasi con una perizia, insomma, che era un documento realmente, era la cosa che noi interessava, portato a conoscenza del Papa, e noi abbiamo la certezza. Aveva tutti i sigilli, i timbri, le ufficiali realizzazioni, perché è un documento vaticano a tutti gli effetti. Sì, è un documento che quindi è stato visionato dalla Segreteria di Stato e dalla Segreteria del Papa. Questo era quello che noi abbiamo scritto e di cui siamo certi. Oltre questo mi sembra che nessuno lo smentisca più, perché se Lombardi abbiamo Wikileaks, vuol dire abbiamo una talpa che fa uscire i nostri documenti. E sottolineo, noi abbiamo scritto un'altra cosa che Lombardi non può smentire, e mi dispiace per lui, diciamo, capisco che è una situazione complicata e difficile, non vorrei essere al suo posto, però l'altra cosa che noi abbiamo scritto è che c'è stata un'udienza privata concessa al cardinale Castrillon, che evidentemente è un cardinale importante. Ricordiamo che anche qui il cardinale colombiano che porta questo documento non è l'ultimo arrivato, insomma un uomo che ha superato l'ottantina, che ha diretto le congregazioni e le commissioni più importanti del Vaticano, è stato a capo di Propaganda Fide, è stato a capo della commissione Ecclesiae Dei, è stato a capo di quello che, diciamo così, possiamo definire l'ufficio del personale di tutto il Vaticano nel mondo, cioè parliamo di un personaggio importantissimo, e questo signore, questo cardinale, perdonatemi, Castrillon, porta questo documento ma lo discute personalmente in udienza privata con il Papa, e anche questo non può essere smentito. Ora, e questa secondo me... Quindi continui ad avere, diciamo, informazioni da questo informatore interno? Ma da più informatori, fortunatamente. Il punto è che secondo me la notizia, la cosa interessante è che si possa discutere di una cosa di questo genere, come quella che è scritta in quel documento, tra un cardinale e il Papa, facendo riferimento a ciò che è stato detto da un altro cardinale importante come Romeo, ci si ponga il quesito se sia giusto o meno pubblicarlo sui giornali. Secondo me parliamo di un uomo che è a capo della principale religione nel mondo, cioè a quell'uomo guardano 2 miliardi di persone nel mondo come la voce di Dio in terra. Anche soltanto il fatto che dentro il Vaticano il Papa discuta di un tema del genere, cioè della sua vita, della sua morte e della possibile addirittura uccisione. Tu dici è una notizia giustamente, è una cosa talmente gigantesca che non si può nascondere. Insomma, di questo poi... guardi, Marco, sono convinto anch'io, mi rendo conto però dal punto di vista di in questo momento subisce la notizia la situazione di estremo imbarazzo nel gestirla, però sai come funziona. Chiaro. Come ha detto giustamente Lombardi, se accenna WikiLeaks accenna al fatto che ormai non esistono più le cassaforti in cui tengono nascoste le notizie. Tu ti sei fatto un'idea, Carlo Marroni, ecco, rispetto a quello che ha detto adesso il collega Marco Lillo, di quale sia l'atteggiamento generale nel gestire questa notizia, un possibile atteggiamento generale dal momento che la notizia ormai è uscita, ormai se ne parla? Beh, naturalmente anzitutto bravissimi colleghi del Fatto, devo dire, perché avessimo avuto chiunque di noi un documento di questa portata ne avrebbe dato una grande enfasi, perché è giusto che sia così. Ma secondo me non a caso chi ha scelto il Fatto come vettore della notizia sapeva che sarebbe uscita. Se quanti altri giornali loro l'hanno trovata e poi non sappiamo. Insomma, comunque il collega, abbiamo letto con attenzione questa e altre precedenti notizie che ha fatto sul Vaticano. Comunque sia, è evidente che i complotti o comunque le lotte interne al mondo della Chiesa Cattolica, alle gerarchie della Chiesa Cattolica, sono sempre esistite. Fanno parte della sua storia. Se avessimo saputo cosa accadeva ai tempi dei Borgia e ci fosse stato un qualche giornale che l'avesse riportato, naturalmente sarebbe stata sempre notizia di grande evidenza. E che non sappia mai a tempo reale, questo è fatto. E questo sicuramente lo leggiamo sui libri. Naturalmente questo, le pareti, diciamo le mura leonine sono diventate permeabili. Questo è un fatto nuovo anche, al di là del complotto, cioè del merito stesso dei fatti, che sono comunque gravi. Per cui la vicenda questa, poi c'è tutta la vicenda recentissima, tra l'altro, di cui anche il Fatto, ma tutti noi ci siamo occupati, ed è stata la vicenda del governatorato, del cambio al vertice di un importantissimo dicastero vaticano ricco, dove il capo, diciamo così, il vice, diciamo comunque il capo in pectore di questo dicastero, è stato silurato fondamentalmente dalla segreteria di Stato, perché sembra, a detta di questo vescovo, che disturbava, diciamo così, gli affari non chiarissimi di molti all'interno del Vaticano, ed è stato mandato a Washington a fare il nunzio apostolico, una carica importante ma sicuramente di minor potere. È un promoveto tamoveato, neanche tanto promoveato, perché doveva diventare cardinale e non lo è diventato. Questo si chiama Viganò, peraltro, ed è questa un'altra storia sono state pubblicate sui giornali. In questo caso fu Libero, e poi nella trasmissione Gli Intoccabili, il collega Nuzzi ne dette grande evidenza di queste lettere che lo stesso vescovo aveva mandato al Papa lamentandosi di una situazione generale. Però anche lì il primo atteggiamento fu dire: sono dei falsi. Non è il caso che la strategia di gestire la comunicazione debba muoversi su terreni più contemporanei. Lì, quando sono uscite queste lettere, devo essere onesto, sono stati un po' disorientati i media vaticani, perché nella prima volta che lettere, cioè che da un vescovo erano dirette al Papa, quindi in due la sapevano, in due, tre, quattro, insomma pochissime persone, finivano su un giornale e su una trasmissione televisiva. Non a caso ci andò il direttore dell'Osservatore Romano in quella trasmissione a commentarle. Era forse anche questo un caso, diciamo, primo nella storia, che il direttore del giornale del Papa va in una trasmissione televisiva, perché evidentemente la questione è salita di livello, come gravità, diciamo così, dei fatti che a occhio del Vaticano. Mi sembra, dovessi dare una prima lettura di quello che sta accadendo, che una gerarchia così importante, così articolata, così delicata, che ha basato sulla riservatezza sempre anche parte della sua forza, della sua centralità, dovrebbe cominciare dal punto di vista della comunicazione non siamo noi a dover dare lezioni, a gestirla in maniera più adeguata al fatto che oggi nulla può essere più segreto, o difficilmente può essere segreto. Sentiamo Enrico, un ascoltatore, velocemente. Enrico, buongiorno. Sì. Buongiorno, io volevo intervenire per introdurre, spero, un elemento nuovo. Mi sembra che state trattando questa questione, forse estremamente delicata e importante, soltanto da un punto di vista, diciamo così, come se la Chiesa Cattolica fosse un'istituzione come molte altre. Vorrei soltanto sottolineare il fatto che comunque all'interno della Chiesa Cattolica, l'azione di Dio, l'azione dello Spirito Santo è fondamentale e modifica e introduce elementi nuovi. Per cui tutte queste cose che possono anche esistere, esserci, comunque sono mediate, modificate da un'azione riparatrice. Cioè, in sintesi, Enrico, per capire un po' meglio, noi diamo la lettura, una lettura che sia una lettura possibile per tutti, da una persona che ha una profonda fede o percezione della trascendenza, una persona che vede semplicemente dei fatti e vuole saperne qualcosa di più. Il suo punto di vista io lo rispetto tantissimo, non può essere un punto di vista universale. Di fronte a questioni che trattano uomini, l'azione dello Spirito Santo è una fattispecie che considera un credente, una persona che ha la fede, ma non chiunque. Certo, ha perfettamente ragione, però questo si riflette su fatti reali, nel senso che è comunque un elemento fattivo. No, perché allora dovrei dare anche, diciamo, parte alle profezie, ai quarti segreti, ai papa che dicevano da quale fessura è entrato il demonio. Anche questo fa parte comunque di elementi da considerare, ma non quando si analizzano dei fatti nella loro semplice lettura concreta e reale. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Ignazio Ingrao e Carlo Maroni. Melog, la realtà condivisa. .800240024, stiamo riprendendo a parlare di una vicenda che sta appassionando i giornali in questi giorni, che potremmo riassumere in una sorta di movimento interno nelle gerarchie ecclesiastiche che culmina con una notizia data dal Fatto Quotidiano qualche giorno fa su una probabile morte del Papa per un evento delittuoso e violento, e una guerra di successione sarebbe aperta. Ne stiamo parlando con Marco Lillo, giornalista del Fatto, che ha portato all'attenzione di tutti questa notizia. In studio con me ho Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, e Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama. Allora Ignazio, questa mattina sui giornali c'è anche Monsignor Bettazzi, un anziano vescovo di Ivrea, che se ne esce anche lui, è vero, il Papa si dimetterà, lo diciamo da tanto tempo. Mi puoi fare un veloce excursus di quando questo WikiLeaks Vaticano ha iniziato a farsi sentire? Il termine di Padre Lombardi, che è il portavoce del Papa. Beh, è dall'inizio di settembre che c'è stata una vera e propria escalation, quando a settembre pubblicammo le lettere del Corvo, cioè le lettere di minacce al cardinale Bertone, sempre legate in parte alla vicenda di Viganò, del governatorato. E poi appunto via via abbiamo visto le lettere proprio che Viganò aveva scritto al Papa, e ora la vicenda di questo documento consegnato al cardinale Castiglione. Quindi una vera e propria escalation. Infatti, rispetto alle dichiarazioni che ha fatto anche ieri il padre Lombardi, appunto stigmatizzando chi dà questi documenti e chi pubblica questi documenti, io credo che non dobbiamo, dispiace che poi alla fine, quando c'è il dito che indica la luna, ci se la prende col dito dimenticando la luna è che questi documenti adesso vengono fabbricati, che c'è un continuo di dossier, di lettere, e una dinamica che si è accesa molto forte e che forse in passato non era così forte. Quindi il problema non è che questi documenti escano e come escano, ma che vengono fabbricati in quantità, e il timore è che questo sia, come dire, una tendenza crescente. Marco Maroni, uno dei problemi che si pone alla luce di quello che ha tirato fuori Marco Lillo è un termine che probabilmente è abbastanza nuovo e singolare, sia per un credente che per un osservatore: le dimissioni del Papa. Ma Papa, a tutti gli effetti, può dimettersi un Papa? Perché poi se ne fanno un altro, ci sono due Papi. Perché il Papa non si spapizza mai, lo dico in maniera molto anche basica. Sì, all'epoca di Wojtyla il tema fu posto e fu risolto, nel senso che si poteva fare, però diciamo giuridicamente. Però non si fece. Non si è mai fatto, però diciamo così. Sulla carta il tema era stato trattato con molta delicatezza e non era stato escluso, diciamo così. Però in questo caso, diciamo così, non c'è il tema delle dimissioni del Papa. Se ne parlò all'epoca di Wojtyla perché e stava molto male, era praticamente quasi inerte. Si è maledigia di un viaggio importantissimo del Papa. E questa è una situazione molto diversa. Il Papa è ovviamente ha 85 anni, sappiamo che soffre di cuore, ma lo ha sempre fatto, lo soffriva anche prima di essere eletto. È un signore, diciamo così, un uomo, non è solo Papa, è un uomo con un fisico, diciamo, debilitato. Però fu il fratello del Papa, Ignazio, dirlo per primo, ti ricordi? Sì, appunto, infatti il primo fu proprio suo fratello. Poi Antonio Socci sul Libero è ritornato su questo. Oggi ci ritorna Bettazzi. È chiaro che dal punto di vista giuridico il Papa non è il presidente di un consiglio d'amministrazione che rimette le deleghe e non governa più, quindi è complicato, insomma, immaginare le dimissioni e poi avere due papi contemporaneamente. Però l'obiettivo è quello di dimostrare che c'è un Papa che non è capace a governare, che non è capace a gestire queste dinamiche interne. E un po' purtroppo noi dobbiamo dire che questo è vero. Benedetto il 15 febbraio festeggia i 30 anni di permanenza nella Curia Romana, ma in questi 30 anni è rimasto pur sempre un papa, un cardinale prima e un papa straniero, perché poi di fatto è rimasto sempre estraneo a queste dinamiche, ha sempre ritenuto che fosse necessario indicare quello che è la strada importante del futuro della Chiesa e le urgenze della Chiesa e dell'umanità, ma due piani più in basso ecco che la bramosia del potere, le ambizioni giocano. Carlo Magroni, sembra ci sia un problema di governance. Esatto, questa è una cosa. Dicevamo prima, e ce l'abbiamo, lo diciamo noi del Sole 24 Ore, applicando un termine molto economico. Proprio, infatti. Molto economico, cioè senza, non c'era la governance. Questo accadde all'epoca del caso delle Fevriani, quando scoppiò fra le mani, insomma, era un caso di quasi 3 anni fa, che, insomma, senza stare a ripercorrere, che sono fatti molto specifici, ma insomma, venne fuori un caos completo perché sostanzialmente si perdonò. Donava un vescovo ignorando che questo vescovo aveva fatto le dichiarazioni dicendo che l'Olocausto non c'erano mai stati i campi di concentramento, e bastava aprire internet, lo disse al Papa stesso in un famoso messaggio, poi dice bastava aprire l'internet, disse, e si sarebbe scoperto questo. Ma tu come te lo spieghi da esperto in materia, senza entrare nell'ambito delle profezie, se dobbiamo sentire la profezia, non siamo Giacobbo in questo momento, ma sì. Malachia, dopo questo Papa verrà l'Anticristo e via dicendo, questo problema è un problema che c'è sempre stato o esce fuori adesso perché i mezzi di comunicazione sono molto più invasivi e veloci nel propagare, o c'è un problema specifico, oggettivo di questo momento? Ma è un po' tutto insieme. L'informazione chiaramente ora rispetto a 25 anni fa, 20 anni fa è molto più invasiva, è chiaro, all'epoca. Poi Wojtyla aveva, diciamo così, la benevolenza, soprattutto nella seconda parte del pontificato, dei media mondiali, cosa che questo Papa oggettivamente non ha. Forse non per propria colpa, ma queste mie. E poi perché forse la struttura di governo attuale non è pienamente forse rispondente alle esigenze. Sentiamo solo Marco Lillo, perché l'ho tenuto al telefono in silenzio finora. Hai già qualcos'altro? Non ti chiedo anticipazioni, però secondo te avrà uno svolgimento, avrà un seguito questo canale che hai aperto ormai? Ma sicuramente sì, penso proprio oggi su Domani, cioè Domani dovrebbe uscire un nuovo documento. E poi già anticiparci qualcosa, già che siamo qua. Sì, questa volta ecco, sarà più in linea con i temi tipici del Sole 24 Ore, quindi sarà un documento sullo che riguarderà IOR, quindi. Sì, lo IOR, e secondo me questa cosa che ha detto oggi Padre Lombardi un po' ci, come si dice in gergo sportivo, ci alza la palla, perché ecco oggi Padre Federico Lombardi nel suo comunicato, nella sua intervista a Radio Vaticana riportata dai giornali, proprio fa riferimento come prova di cose positive che vengono fatte dalla Chiesa, fa riferimento a questa legge del dicembre 2010 che poi è entrata in vigore nell'aprile 2011, che prevede una sorta di collaborazione maggiore da parte della Chiesa, maggiore trasparenza proprio sul fronte finanziario, e quindi di questo si parla, cioè dello IOR, della collaborazione nell'antiriciclaggio. E questo documento cosa direbbe invece? Ecco, invece secondo me non è proprio così. Io da questo punto di vista, se posso permettermi, io non sono un vaticanista, non mi intendo, anche se sono cristiano, e quindi mi accosto con rispetto a questo mondo, e vorrei sottolinearlo questo aspetto, perché a volte io non sono ovviamente della linea dell'ascoltatore che ha chiamato prima. Poi non fai nemmeno una crociata anticristiana, fai il tuo mestiere, mi sembra. Ecco, no, però come dire, mi metto anche nei panni dell'oggetto del mio lavoro, cioè in questo caso appunto dei cardinali, o in questo caso di Padre Lombardi, che sono in una logica evidentemente diversa, perché intrisa di fede e di Spirito Santo, come diceva prima l'ascoltatore. Ecco, secondo me però a volte può essere anche un ostacolo nel comprendersi tra i due mondi, quello dei media, cioè il nostro che cerca di raccontare in qualche modo una verità oggettiva, e quello invece dei corporati o comunque di chi si deve curare delle pubbliche relazioni del Vaticano, che invece ha una prospettiva secondo me un po' chiusa, cioè interna alle mura leonine, per cui a volte anche questi comunicati che vengono fatti, nel momento in cui si entra in un rapporto di comunicazione con un giornale che pubblica determinate notizie, dovrebbero essere fatti pensando al di fuori, non soltanto al di dentro, e per questa ragione secondo me bisogna stare attenti quando si dice in un comunicato in cui si parla di collaborazione tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano in materia antiriciclaggio, una cosa così delicata, secondo me bisogna dire delle cose corrette, e secondo me non è vero quello che è stato detto dal Vaticano in questi giorni e ribadito anche oggi da Padre Lombardi, che il Vaticano realmente voglia aprirsi, voglia aprire i suoi archivi delle sue banche, in particolare dello IOR evidentemente, alla giustizia italiana e all'antiriciclaggio. Ma fermiamoci un secondo, Marco, perché mi sembra l'argomento sia interessante, ci sta dando anche importanti anticipazioni. Melog, la realtà condivisa. 800 24 00 24, questa mattina gli ascoltatori ci ascoltano, come è il loro ruolo, e probabilmente siamo entrati così all'interno di una materia che normalmente viene guardata con superficialità, chi non ha interesse nel capire nel profondo quali sono i meccanismi, le mutazioni, i punti di vista, gli accadimenti che riguardano un'istituzione forte e importante come quella della Chiesa. Ma abbiamo in studio, ricordo, Ignazio Ingrao, che è vaticanista di Panorama, Carlo Marroni, che è il vaticanista del Sole 24 Ore. Stiamo parlando con Marco Lillo, che è l'iniziatore di questo discorso che stiamo facendo, che parte da un'informativa circolata all'interno del Vaticano su una notizia che è stata data da un cardinale in Cina, su un probabile evento delittuoso che avrebbe toccato il Papa, quindi si parla di successione, quindi poi c'è stata tutta una serie di rimandi, di richieste di chiarimento, di trincerarsi dietro delle situazioni che dice, in fondo è sbagliato sia chi fa uscire questi documenti, ha detto il portavoce del Papa, Padre Lombardi, ma anche sbagliato chi li pubblica. Noi siamo dell'idea che invece nei confronti di una notizia, fatte le necessarie verifiche, è un dovere del giornalista pubblicarle. Carlo Marroni, secondo te di cosa sta parlando Marco Lillo? Di questo documento che uscirà domani sul Fatto? Poi chiederemo a lui conferma o smentita. No, possiamo ipotizzare. E facciamo un'ipotesi. Sullo IOR c'è una vicenda in atto, in corso da un anno e mezzo e più. La Procura di Roma sequestrò 23 milioni, che erano due bonifici che ha transitati attraverso una banca italiana, il Credito Valtellinese, verso la JP Morgan di Francoforte. Questi bonifici erano senza indicazione di beneficiario, invece la legge italiana prevede che ci sia sempre indicazione del beneficiario, quindi massima, c'è una trasparenza, e quindi furono sequestrati questi soldi, poi furono recentemente sono stati dissequestrati, l'indagine della procura è andata avanti, formalmente i vertici dello IOR, presidente e direttore, sono ancora indagati, però la vicenda dopo il dissequestro sembrava in via di soluzione. Poi sono usciti dei documenti che si aggiungono a quelli che diceva Ingrao poco fa, però lì è più dibattuta la questione su come questi documenti siano frutto dei cardinali o meno. Comunque sia, al di là di questo, lo stesso Fatto se ne è occupato. C'entra poco il soffiare dello Spirito Santo su queste cose. Zero. Qui si parla dello sterco del demonio che non del buon concime per la vigna del Signore, se vogliamo usare parole del Papa. Comunque sia, ecco, lì ci sarebbe stato, questo poi Lillo forse lo sa meglio di noi, ci sarebbe stato una indicazione da parte dei vertici della Segreteria di Stato di non collaborare collaborare poco con la giustizia italiana per far chiarezza su questo tema. Manteniamo sempre questa sorta di riservo, questa di chiuderci dentro le mura. Naturalmente questo contrasta con la legge che ha varato il Papa, di cui noi peraltro il Sole 24 Ore, se mi posso permettere, demo notizia all'epoca, di questa nuova legge che diceva massima trasparenza, legge varata a fine 2010 e entrata in vigore nel 2011. Quindi questa legge vaticana interna che prevede la massima trasparenza, senza questa il Vaticano rimarrà un paese fuori dalla lista bianca, la white list, significa sostanzialmente una specie di paradiso fiscale. Come se fosse le Bahamas. Di paradiso, paradiso fiscale in questo caso. Marco Lillo, ci è andato vicino il tuo collega Marroni? Sì, soltanto appunto noi siamo sempre un po'... più brutali, nel fatto, ecco, il titolo che abbiamo fatto quando abbiamo pubblicato per primi questo documento a cui faceva riferimento Marroni, che era appunto un memo interno che fotografava lo stato del dibattito dentro il Vaticano, dove c'erano due linee di pensiero. Da un lato diciamo appunto quella più vicina secondo me alla Segreteria di Stato e sicuramente supportata dall'avvocato che storicamente difende, oltre che la Fiat, il Vaticano, che è l'avvocato Grande Stevens, lo studio dell'avvocato Grande Stevens, che diceva: non collaboriamo, non diamo informazioni finanziarie. Un avvocato è anche lecito di questi consigli, sì, al suo cliente. No, certo, però appunto questa è che noi dovremmo scindere, era... scusa Marco, a un certo punto, sì, una persona di fede, un credente, deve dire, sì, io ciò non intacca la mia fede assolutamente, la mia fiducia, la mia devozione verso la Chiesa, però certi fatti accadono perché è fatta di uomini e gli uomini si sa che, certo, hanno comportamenti umani. Secondo me questo è il punto di vista esatto. Ma nello specifico, domani uscirai con qualcosa che avrà una rilevanza simile al pezzo del 10? Volevo soltanto parlare, se mi dai 30 secondi, sì, inquadro il tema. Allora, il tema è questo. Il sequestro a cui faceva riferimento prima il collega Marroni, i 23 milioni, sono stati restituiti allo IOR dalla Procura sulla base proprio di un moto proprio, si chiama così, di una legge fatta da Benedetto XVI, che era un segnale di apertura. Cioè Benedetto XVI ha creato un'autorità antiriciclaggio, ha detto vi prometto che d'ora in poi vi daremo le informazioni, sostanzialmente questo era il clima che si era creato, ed effettivamente quando la Procura di Roma nell'ambito di questa indagine ha fatto una prima richiesta di informazioni, immediatamente ha ottenuto quello che voleva, la risposta è arrivata in via immediata, e sulla base di questa, come vogliamo dire, apertura, promessa, comportamento fattivo positivo, la Procura ha dissequestrato 23 milioni. E tutti noi abbiamo detto che bello, finalmente. Il problema è però, e questo per questo noi sintetizzando in maniera forse un po' brutale abbiamo titolato lo IOR si fa beffe dell'Italia, subito dopo aver ottenuto il dissequestro però il Vaticano ha cambiato linea e noi abbiamo pubblicato questo memo interno che dimostrava che questa nuova linea, cioè di non dare più nulla per quanto riguarda tutto quello che era accaduto dentro lo IOR fino all'aprile del 2011, cioè dall'entrata in vigore della legge in poi, sì, ma tutto quello che è accaduto prima, no, non vi diciamo nulla. Ecco, questa nuova linea, secondo quello che risultava da questo memo, era conosciuta, sposata, in qualche modo condivisa anche dal segretario di Stato Tarciso Bertone. E domani? A seguito di questo documento abbiamo ricevuto, noi anche la Sette che poi ha ripubblicato questo documento, ha ricevuto una smentita dalla Santa Sede che ha detto non è vero, noi collaboriamo, continuiamo a collaborare e quindi come se fosse stato quasi un disguido il fatto che alcuni magistrati romani non avevano avuto risposte. No? Invece? Come se non fosse ecco, e domani pubblicheremo un documento ufficiale questa volta, non un memo eccetera, da cui risulta che le autorità vaticane hanno scelto di non collaborare, che c'è una scelta ben ponderata e questa cosa, voglio dire, può anche essere legittima. Il problema è lì torno al punto di partenza, che può essere legittima in una logica di Stato interno, diverso dallo Stato italiano, però secondo me nel momento in cui si entra in un discorso di rapporto tra Stati e lì si apre la grande pagina dell'8 per mille, uno Stato che finanzia l'altro Stato, e se uno prende un impegno tra Stati però lo deve mantenere o comunque deve dire non lo voglio più mantenere. Questo comportamento invece un po' ambiguo di comunicazione per cui si dice collaboriamo poi non collaboriamo, otteniamo il sentiamo sequestro. Ignazio Ingrao, che siamo proprio verso conclusione su questo che anticipava la questione dello IOR è ancora aperta perché come ci ha spiegato Nello Rossi, il sostituto procuratore titolare dell'indagine, l'indagine è ancora aperta e poi si va avanti a citazione diretta, quindi non si passa neanche davanti al GIP e quindi il presidente dello IOR Gotti Tedeschi e il direttore generale Cipriani possono andare a processo su questa questione che è totalmente aperta. Quindi io ritengo che la vicenda Unicredit e Credito Artigiano e via dicendo dello IOR sia ancora totalmente aperta e possa dare ancora sorprese, perché nel giro di qualche mese è una questione tutt'altro tipo, siamo finiti a parlare di questo, siamo partiti su una notizia sulle probabili dimissioni del Papa, attentato al Papa, siamo finiti a parlare di soldi. Infatti io se posso dirti però quello che dispiace di questa stagione diciamo della Chiesa e del Vaticano è che è tutta rivolta come dire su se stessa, e cioè l'Europa è in crisi, questo Papa non è riuscito a dire neanche una parola diciamo rispetto alle dinamiche tra Francia, Germania e il resto dell'Europa, lui Papa tedesco, e siamo tutti tesi invece a parlare di queste questioni e dinamiche interne. 800 24 0024, poi la trasmissione la ripigliamo un'altra volta, domani tratteremo un altro argomento. Grazie Ignazio Ingrao, grazie Carlo Marrone, grazie Marco Lillo, a domani.